I. Asino. Asino. Tigre. Tigre. Limone. Limone. Olive. Olive. 练习. Li. Li. Si. Si. Pini. Pini. Nidi. Nidi. Fili. Fili. Vini. Vini. I pini sono alti. I bimbi sono buoni. I lavori sono duri. Sono molti i feriti e morti. I vivi sono fortunati. 谚语. Proverbi. Fortunati gli ultimi, se i primi sono discreti. Tutti i nodi vengono al pettine.